Essere e benessere di Nicoletta Carbone. L'estate delle mie, delle tue vacanze, automobili giù tutti i finestrini, anche i più grandi che ritornano bambini, il gioco prende il sopravvento sulle cose serie, il lavoro si trasforma in ferie, lo studio diventa vacanza, il cielo lì che ti aspetta fuori dalla stanza, vai! Ma che caldo, il caldo non molla, però noi non lasciamoci mettere KO, idratiamoci, acqua, tè, tisane, centrifugati, frutta e verdura di stagione sono assolutamente in grado di fornire all'organismo tutto quello che ha bisogno per riequilibrare le perdite. Evitiamo o limitiamo invece gli zuccheri, dolci, gelati, bibite gasate, zuccherate, all'inizio ci rinfrescano e ci danno anche la sensazione di tirarci su, di darci un po' di energia, ma sono molto caloriche e rischiano nelle persone predisposte di far aumentare i valori della glicemia. Perché ve ne parlo oggi? Perché in questi giorni è uscito uno studio che sottolinea un legame molto stretto tra glicemia e Alzheimer. Ne parliamo col professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta. Allora, buongiorno, mangiamo, tutti mangiamo. La nostra alimentazione influisce nelle persone predisposte, nei valori della nostra glicemia, di cui parleremo. E tutto questo sappiamo che non si limita solo al magari farci aumentare di peso, ma ha delle influenze, delle conseguenze sul nostro cervello. Tutti noi vogliamo invecchiare mantenendo il nostro cervello attivo. Professore. Come cambiano i tempi? Si ricorda negli anni Ottanta c'era una pubblicità Progresso che diceva il cervello ha bisogno di zuccheri, diamo zuccheri al cervello, ed è verissimo. Però ci stiamo accorgendo che quando gli zuccheri sono troppi l'effetto è opposto. È dimostrato in maniera incontestabile che la restrizione calorica, e le calorie vengono spesso dagli zuccheri, attiva i geni della lunga vita chiamati sirtuine, assieme all'esercizio fisico. In chiunque di noi, quando si parli di glicemia, viene in mente l'idea dell'insulina. Bene, questi studiosi hanno proseguito un filone molto interessante sul ruolo dell'insulina, che è una conseguenza in parte della glicemia, nell'invecchiamento cerebrale. In condizioni normali, se non siamo degli eccessivi consumatori di zuccheri e se non siamo geneticamente predisposti, l'insulina entra nel nostro cervello e, come viene fatto al giardino zoologico, viene aperta la gabbia e dato il mangiare, consente l'ingresso dello zucchero nei neuroni, insomma dà da mangiare alle cellule nervose dell'ippocampo e quindi fa bene alla memoria. Ma attenzione! Se incominciamo a avere il girovita abbondante, se andiamo incontro a quella chiamata sindrome metabolica, se in sostanza incominciamo a avere troppa insulina circolante, questa fa esattamente il contrario ed ecco quindi la necessità di controllare la glicemia. Cosa succede? L'eccesso di insulina facilita la produzione di quella sostanza proteica chiamata amiloide, che è la caratteristica dell'Alzheimer. Non solo, fa arrugginire, in realtà induce una fosforilazione di quei tralicci che sono i neurofilamenti che sostengono la cellula nervosa. Quindi troppa insulina facilita la produzione delle alterazioni dell'Alzheimer. I ricercatori americani si sono accorti che una maniera interessante per controllare la glicemia, oltre ovviamente a quella di stare attenti, è l'utilizzo, si è parlato di frutta, del resveratrolo, che è quella sostanza estremamente interessante presente nel vino rosso, o per meglio dire nella buccia dell'uva rossa. Perché questo resveratrolo tiene bassa la glicemia e attiva potentemente queste sirtuine, le sostanze della crescita, nascita e buona vita delle nostre cellule, non solo nervose. In conclusione, che cosa possiamo dire? Insomma, al di là del valore nutritivo degli zuccheri, che è fondamentale, cerchiamo di mangiare non poco ma poco calorico, e questo ce lo dice dal nutrizionista, ma lo dice oggi anche certamente il neurologo. Quando c'è da mangiare frutta, non dimentichiamo l'uva, che viene così ormai associata al fatto di essere per certi versi più zuccherina, ma l'uva rossa ha il resveratrolo che poi abbassa i rischi della glicemia sul cervello. E poi tutti noi chiediamo al medico: senta, ma quanto ho di colesterolo? Per carità, è importantissimo. Incominciamo a chiedere com'è la glicemia e magari da un buon internista, specie nei soggetti con familiarità per malattie di Alzheimer, controllare i nostri livelli di insulina, che in parte dipendono ovviamente dalla nostra genetica, in parte dallo stile di vita, glicemia inclusa. Grazie professor Barbanti per queste preziose indicazioni, quindi controlliamoci, controlliamo quello che mangiamo per avere la certezza o almeno maggiori probabilità di mantenere il nostro cervello giovane, sano e attivo. Professor Barbanti, grazie per essere stato con noi. Arrivederci, buona estate. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori. E abbiamo quindi un motivo in più per fare attenzione, per essere consapevoli, dopo questo studio che ha sottolineato il legame molto forte tra glicemia e Alzheimer. Allora è importante conoscere i valori della nostra glicemia, tenerla entro i valori ottimali, ed è quello che faremo oggi, impareremo a fare con il dottor Federico Bertuzzi, diabetologo all'ospedale Niguarda Cagranda di Milano. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Abbiamo visto che la glicemia ha davvero un ruolo fondamentale per la nostra salute, interessa anche il nostro cervello. Come dicevo prima, mangiamo tutti, abbiamo tutti un cervello, abbiamo tutti dei valori di glicemia, per cui invito i nostri ascoltatori a chiamare l'800 24 0024, soprattutto se hanno dei familiari con diabetici oppure con, come ha sottolineato il professor Barbanti, con malattie neurodegenerative. Dottor Bertuzzi, abbiamo realizzato una Vox Populi della glicemia, sappiamo tanto, ma forse non sappiamo tutto, ne parliamo, ma forse la controlliamo poco. Andiamo a sentire che cosa hanno detto i nostri intervistati. La glicemia è la presenza di, indica la presenza di zuccheri sempre nel sangue. E la glicemia è praticamente la quantità di sangue di zuccheri nel sangue. Una quantità troppo elevata potrebbe portare a diabete. La glicemia non lo so, non te lo so dire. Mi spiace. Per quanto riguarda la glicemia, indica il tasso di zuccheri presente nel sangue. A seconda dei livelli medio-alti di glicemia, la persona può essere esposta a rischio, per esempio, di diabete. La glicemia, invece, sono gli zuccheri contenuti nel sangue. Sì, è un problema medico che riguarda i zuccheri, insomma, eccetera. Dottor Bertuzzi, vuole completare? Ah, diciamo che c'è ormai una certa informazione, anche se comunque è un problema spesso sottostimato. Ricordiamo che infatti se per il diabete di tipo 2 c'è un 4-5% di popolazione affetta, c'è un altrettanto 5% della popolazione che, pur avendo il diabete, non sa di esserlo, perché proprio non ha fatto mai controlli. Per questo proprio si consiglia, soprattutto nelle persone predisposte, di fare periodicamente dei controlli. Quando diciamo persone predisposte, a chi ci rivolgiamo? E i controlli, a partire da che età vanno fatti e come? Dunque, il controllo come valutazione nelle popolazioni a rischio si consiglia nei soggetti, nelle persone che hanno un'età superiore ai 45 anni, specie se in sovrappeso o obese, e soprattutto che hanno familiarità, parenti che hanno diabete o che parenti che hanno avuto anche donne che hanno avuto diabete gestazionale, cioè quella forma di iperglicemia che si ha di diabete che si ha durante la gestazione, durante la gravidanza. Sì. Oppure va fatto anche il controllo nei pazienti, nelle persone, pazienti che hanno avuto malattie cardiovascolari. Ci sono anche alcune E adesso mi scusi dottor Bertuzzi, sì, alla luce di questa ricerca possiamo estendere anche l'invito a controllare ogni tanto i valori della glicemia alle persone che hanno in famiglia parenti con malattie neurodegenerative, perché abbiamo sottolineato, certo. Abbiamo, il professor Barbanti ci ha spiegato qual è il legame tra glicemia e malattia di Alzheimer. E questo è sicuramente molto importante ed è tutto un nuovo filone di studio aperto. E poi ricordiamo comunque che va fatto anche soprattutto nelle persone che riferiscono dei disturbi quali una sete eccessiva e bisogno di urinare frequentemente, quindi non solo nei pazienti, nelle persone a rischio, ma nelle persone che magari hanno già sviluppato la malattia. E diciamo che il controllo è abbastanza semplice, perché in realtà basta un prelievo di sangue fatto al mattino a digiuno, la glicemia, quella che proprio di cui hanno parlato i nostri ascoltatori, per sapere se il paziente è sano, se la persona è sana, mm-hmm. è a rischio o è malato. Diamo i valori allora, dottor Bertuzzi. Superiore uguale a 126 di glicemia al mattino indica uno stato di diabete. Questo è un parametro che comunque va confermato una seconda volta. Nelle persone che hanno una glicemia tra i 100 e i 126 si definisce un'alterata glicemia a digiuno, sono quelle persone che devono fare ulteriori controlli, perché rientrano un po' nella categoria delle persone a rischio di diabete. Quello che un tempo è una zona grigia che un tempo veniva chiamata prediabete. Effettivamente oggi si chiama alterata glicemia a digiuno. C'è anche in alcune persone particolarmente a rischio, c'è anche un'ulteriore possibilità di vedere se la persona è affetta da diabete, che è quella della curva da carico di glucosio, mm-hmm. cioè il paziente beve un bicchiere di acqua e zucchero con 75 grammi di zucchero, quindi insomma una quantità significativa, con dei prelievi fatti a zero dopo un'ora e dopo due ore, e questo diciamo in qualche modo va a valutare se la persona ha un diabete dopo uno stimolo molto importante della sua funzionalità pancreatica. E quindi con questo test si riesce a vedere anche se una persona ha diabete anche con dei valori di glicemia a digiuno che magari rientrano in quella fascia di rischio, abbiamo detto dai 100 ai 126. Dai 100 ai 126, questa è una fascia su cui è importante e opportuno intervenire, una fascia di persone, perché lo sappiamo che può essere, i valori possono essere modificati grazie all'alimentazione, lo sappiamo, anche attività fisica è assolutamente importante. Io vi invito a chiamarci e anche a pensare qual è l'ultima volta, se l'avete fatto, in cui vi siete misurati la glicemia, che può alzarsi, dottor Bertuzzi, ma può anche abbassarsi. In questo caso si parla di ipoglicemia. Sì, e questa è una condizione frequente soprattutto nelle persone che digiunano per più di 16, 20 ore, 24 ore. Allora in questo caso la glicemia tende ad abbassarsi, cioè la quota di zucchero che era stata assorbita dopo il pasto in qualche modo si è esaurita, si sono esaurite un po' anche le scorte che il fegato accumula per le condizioni di digiuno, e in questo caso quindi la glicemia e i valori glicemici tendono ad abbassarsi. Dottor Bertuzzi, mi faccia capire, noi sappiamo, se volessimo fare un confronto con la pressione, sappiamo che la pressione è meglio averla bassa che alta, se non riusciamo ad averla perfetta nella norma. Questo funziona anche per la glicemia, cioè mi devo augurare di averla naturalmente nei limiti della norma, ma meglio bassa che alta? Allora, il nostro sistema di controllo dello zucchero nel sangue, della glicemia nel sangue, è un sistema molto preciso, tant'è vero che è regolato da tanti ormoni, da tante sostanze che entrano in gioco e contribuiscono a controllare che la glicemia in un soggetto sano non oscilli in maniera eccessiva. Però sì, diciamo che la glicemia in un range che va dai 70 ai 126 permette in qualche modo di evitare questi rischi che si hanno con la glicemia alta nel corso del tempo, meglio valori un pochino più bassi che al di sopra della norma. Dottor Bertuzzi, mi faccia capire come posso sapere o pensare che magari un eventuali sintomi, una sorta di malessere, possono dipendere da una glicemia che si è alzata o si è abbassata? Spesso viene attribuito ad una carenza di zuccheri quello che magari in realtà è semplicemente un abbassamento della pressione. Sì. Ecco, diciamo che per parlare di ipoglicemia si fa riferimento proprio a una situazione in cui il paziente si sente debole, ha una serie di sintomi che poi se volete vi dico, sì. che si risolvono con l'assunzione poi di zuccheri nel giro di poco tempo. Quindi per avere una diagnosi di ipoglicemia bisognerebbe avere proprio il riscontro di un valore alto, magari accertato mediante uno di questi dispositivi che ci sono anche nelle case che misurano la glicemia capillare, e che comunque debba poi essere in qualche modo risolto grazie all'introduzione di zuccheri. Quindi è importante la correzione. Maria Rosa da Milano, Gabriella dalla provincia di Padova. Maria Rosa, benvenuta, grazie. Grazie, avevo bisogno di fare due domande che sono in una. Allora, sapere che cosa possono andare incontro ai miei figli, perché io soffro di ipoglicemia e vi assicuro che si sta malissimo. Ecco, me lo racconta lei, Maria Rosa, che cosa si allora, sente? Allora, a me capita, soprattutto nel cambio di stagione, premetto, io come mi alzo, la prima cosa che faccio dopo aver lavato la faccia è mangiare. Una cosa che non faccio mai è saltare la colazione, perciò faccio sempre delle colazioni molto abbondanti. Come me, Maria Rosa. Con carboidrati, come latte, con marmellate fatte in casa, perciò non mi faccio mancare nulla. Però nel cambio di stagione ho dei periodi in cui sto veramente male, con questi abbassamenti glicemici è come se mi sentissi d'aver bevuto un bicchierino di alcol a stomaco vuoto, essendo astemia. Proprio da aver paura anche a salire sul gradino. Abbiamo capito perfettamente, la sensazione, sì, con la testa un po' stordita, come quando uno esagera un po'. Sì, ma non solo la testa stordita, proprio tutta una serie di anche nausea, una serie di disturbi non indifferenti. E anche se mangio qualcosa, devo mangiare qualcosa, ma non zuccheri pronti, ma tipo carboidrati, cioè zuccheri a lento assorbimento, quello che mi ha insegnato il mio medico, aggiungere un po' di burro per assorbire più lentamente gli zuccheri dei carboidrati, non zuccheri pronti, perché sennò il picco di glicemia va molto alto, ma poi scende anche poi molto scende, basso. Un po' come le montagne russe. Esatto, è un po' come la pressione, che non troppo alta va bene, ma se è troppo bassa si cade. Sì, e allora... questo è un po' il quadro. Problema. Dottor Bertuzzi, lo riconosce il quadro di Maria Rosa? Sì, okay. Se questo è associato ad un pasto, magari avviene o in condizioni di digiuno o avviene dopo 2 o 3 ore da quando è venuto il pasto, ecco, questa è un'informazione importante per cercare di capire qual è la causa dell'ipoglicemia. E comunque ricordo l'importanza di documentare questo calo di zuccheri con delle misurazioni della glicemia che realmente dimostrino un valore di glicemia al di sotto di 70. Maria Rosa, lei temeva per i suoi figli, perché? Ecco, poi volevo sapere, visto che ho i suoceri, mia suocera che ha avuto il diabete, mio suocero l'Alzheimer, i miei figli a che cosa possono andare ipoteticamente a rischio? Allora, Maria Rosa, passiamo la domanda al dottor Bertuzzi. Naturalmente i controlli sono suggeriti nelle persone che hanno familiarità con determinate malattie, vero professore? Dottor Bertuzzi? Certo, certo. E ripeto, la glicemia a digiuno è il sistema oggi migliore, più standardizzato per capire se le persone stanno sviluppando, sono a rischio o hanno già avuto la malattia. Ma diciamo che la glicemia permette di fare la diagnosi, cioè di dare un nome alla malattia, ma in realtà se la persona che ha una familiarità si mantiene un normo peso, controlla già l'alimentazione e con una regolare attività fisica, in qualche modo già previene poi l'insorgenza stessa della malattia. Per cui il consiglio che do a chi è che ha familiarità per il diabete, è opportuno, è importante fare i controlli della glicemia, ma è già molto importante mettersi in quell'atteggiamento, in quello stile di vita, in quei comportamenti che in qualche modo predispongono poi l'insorgenza della malattia stessa. Passiamo a Elvio. Mi ricordo che c'era una nostra ascoltatrice che forse è caduta, non la trovo più. Ah, Gabriella, dalla provincia di Padova. Buongiorno Gabriella, l'avevo perso, ho detto, ma avevo la Gabriella in linea, dove è andata a finire? Vede che... Volevo soltanto chiedere, anch'io ho, cioè io, mi sembra che il valore del glucosio, il minimo, sia 75. Io ho 69, e cioè è bassa la mia glicemia, però non ho sintomi come la signora precedente, cioè io sto bene, non mi sono accorta solo facendo gli esami. E poi non rischia soprattutto di avere poi una malattia neurodegenerativa, Gabriella. Meglio bassa che alta, ma è il Dutour che ci deve dire. Dottor Bertuzzi. C'è molta discussione e ci sono diverse linee guida che danno anche dei valori di riferimento un po' contrastanti sui valori minimi di glicemia per definirla patologico o meno. Alcuni parlano infatti di inferiore a 70, altri inferiore a 65, nei neonati è facile vedere glicemie ancora più basse. Quindi se non ci sono sintomi, se la paziente è la persona 69 di glicemia e non ha sintomi, è assolutamente una situazione di normalità. Gabriella, stia bene. Allora, a proposito di valori, Emilio mi scrive: come mai sempre arrivano sui valori arrivano sempre SMS quando c'è la pressione, si parla di pressione, di colesterolo, quando si parla di glicemia? Perché il dubbio di Emilio è: come mai i valori sono stati abbassati? Forse le lobby farmaceutiche ne sanno qualcosa? Aggiungo direi proprio, io direi proprio di no, direi che ci sono degli studi epidemiologici, cioè quelli che vengono a vedere quali sono in grosse in popolazioni, quindi in grossi numeri di persone, hanno cercato di correlare, di vedere che relazione ci fosse tra i valori della glicemia e alcuni problemi, alcune complicanze. E poi se uno non ci crede, non ci crede. No, e quindi questi studi hanno definito, hanno permesso di definire i valori soglia, cioè i valori per la diagnosi, quindi non ci sono interferenze delle case. Sì, nel caso se uno non si fida, non si fida. Elvio dalla provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Credo che devo abbassare la radio, vero? Perché sennò viene il rimbombo. Bravo, ma quanto se ne sapete? Mi dica Elvio, vada. Rispetto all'impatto del caffè con una bustina di zucchero rispetto alla glicemia. Io da molto che seguo problemi di alimentazione, ho una buona forma fisica, ho 49 anni, e ho osservato effettivamente che quando si abusa di zucchero subentra la stanchezza, comunque un malessere, e non lo stato ottimale che si ha invece quando si fa attenzione all'alimentazione. Ho questo vizietto però di prendere il caffè e spesso ci aggiungo lo zucchero. E volevo sapere appunto l'impatto di questo. Ma quanti caffè beve e quanti cucchiai di zucchero aggiunge? Perché è anche un problema di quantità. Una bustina anche scarsa, però magari ne bevo 3 o 4 al giorno di caffè. Dottor Bertuzzi. Allora direi che il cucchiaino di caffè nello zucchero, la bustina di zucchero nel caffè non va demonizzata. Cioè stiamo parlando di persone che sono a rischio di diabete, che devono avere quindi una serie di attenzioni, ma una persona di 49 anni in perfetta forma fisica può prendere anche i suoi 4 caffè con lo zucchero, che non succede assolutamente niente. Si beve un caffè con noi, Elvio, grazie, buona giornata. Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sui mercati, poi il meteo, che decideranno fa caldo, e poi torniamo di nuovo insieme ad occuparci di indice glicemico, carico glicemico, ci sono degli alimenti che ci aiutano, e poi parleremo anche di zucchero, non bisogna fare di ogni erba un fascio. Essere e benessere. Passa il tempo, le cose sono qui, sto sempre qua. I miei dubbi risolti, non ce l'ho la verità, è sempre sulle montagne russe, sto su e giù e si va. Va su e poi torna giù come un'altalena, come si fa sulle montagne russe, anche la nostra glicemia va su e poi giù. Una volta che introduciamo alimenti contenenti zuccheri, la glicemia si alza, il nostro organismo deve occuparsene, quindi secerne un ormone per riportarla ai livelli ottimali. E questo è il meccanismo, dottor Bertuzzi? Direi di sì. Come ho detto prima, il sistema è anche molto efficiente, regolato da diversi fattori in gioco, però certo ci possono essere alcuni situazioni o legate ad una cattiva alimentazione, a degli stress metabolici che possono provocare delle oscillazioni sicuramente nei pazienti predisposti o malati, ma in alcuni casi anche nei soggetti sani. E quindi è quello che dobbiamo fare noi, evitare i picchi, gli sbalzi che producono uno stress metabolico e ormonale, insomma un po' come succede a noi con le preoccupazioni. I picchi della glicemia potremmo paragonarli, per il nostro metabolismo, a quello che sono gli affanni, le preoccupazioni, le botte d'ansia, come le chiamo io, per il nostro equilibrio psicoemotivo. Ma questi picchi noi possiamo imparare ad evitarli, basta imparare a scegliere quello che mettiamo nel piatto. In linea con noi abbiamo il professor Andrea Poli, direttore scientifico di Nutrition and Foundation Italy. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a voi. Professore, quando parliamo di glicemia, noi sappiamo ormai che esiste anche un indice, si chiama indice glicemico, ne abbiamo sentito parlare, ne parliamo tutti, anche perché viene utilizzato anche da molti regimi alimentari, da molte diete, ma ci spiega esattamente che cos'è? Certo, mi piace ricordare in apertura che abbiamo recentemente fatto una conferenza di consenso a cui hanno partecipato tutti i massimi esperti mondiali, tra cui David Jenkins, che è lo scienziato canadese che ha cominciato a parlare di indice glicemico per primo nell'81, quindi più di 30 anni fa. E l'indice glicemico ci dà un'idea della qualità dei vari carboidrati che consumiamo, misurando in qualche modo l'effetto che hanno sulla glicemia. Un alimento ad alto indice glicemico tende a far salire rapidamente in maniera marcata la glicemia, mentre un alimento a basso indice glicemico, a parità di carboidrati consumati ovviamente, dà un effetto minore, una salita minore della glicemia, una salita più lenta e più duratura. E ovviamente tutto questo implica, come lei accennava nell'introduzione, una diversità nella risposta del nostro organismo, che risponde in maniera differente con una produzione di insulina che in genere è alta quando è alto l'indice glicemico ed è bassa quando è basso l'indice glicemico. E in effetti, come lei diceva, noi vogliamo evitare i picchi. Questo è un concetto molto generale su cui secondo me si potrebbe elaborare molto a lungo. La stessa cosa vale anche per la salita della trigliceridemia dopo i pasti. Dovremmo stare piatti, e questo è uno dei motivi tra l'altro per cui ultimamente i nutrizionisti dicono fate 5 piccoli pasti piuttosto che fare un singolo pasto gigantesco come fanno molti di noi la sera a casa, il che naturalmente implica che in qualche modo la salita della glicemia e di altri parametri dopo il pasto sarà molto marcata. Quindi dobbiamo stare in equilibrio, un po' schisci come si potrebbe dire. Questo purtroppo è un triste è un messaggio ormai omogeneo. Professor Poli, però si parla anche di carico glicemico, allora indice glicemico, carico glicemico, qua c'è da impazzire, che cos'è il carico glicemico? Beh, l'indice è una, come dicevo, è la qualità di un alimento. L'indice glicemico della pasta, per esempio, è molto buono, l'indice glicemico del pane è un po' meno buono, l'indice glicemico delle patate mediamente è ancora meno buono, anche se stanno arrivando delle patate a basso indice glicemico. Ma è ovvio che anche la quantità, lei lo accennava prima, di quello che consumiamo è importante. Il carico cerca di tenere insieme questi due parametri, quindi l'indice e la quantità, in un unico valore. Come posso darvi un esempio banale? Immaginiamo che l'indice glicemico della pasta sia attorno a 50 e l'indice glicemico del pane sia attorno a 70. Se noi dall'indice ci spostiamo verso il carico, possiamo, semplificando le cose, dire che 70 grammi di pasta avranno un effetto sulla glicemia che è simile a quello di 50 grammi di pane, quindi in qualche modo la quantità combinata con l'indice glicemico ci serve per vedere alla fine quale sarà l'effetto di quello che stiamo consumando sulla nostra glicemia. E combinando questi due parametri possiamo avere delle informazioni molto utili e molto pratiche. Tra l'altro, professor Poli, in Australia l'indice glicemico è riportato sulle etichette degli alimenti, vero? Esatto, esatto. E con un trend in crescita costante, recentemente appunto è stato da noi Alan Barclay, che è una delle persone che si occupa di questo tema, e diceva che ormai quasi il 50% delle persone che entrano in un supermarket in Australia cerca questo loghino che si chiama l'OGI, che garantisce che l'alimento ha un basso indice glicemico. Quindi il fatto di averlo sull'alimento facilita ovviamente la scelta di questi di alimenti con un indice glicemico contenuto, e questo è molto importante perché altrimenti non c'è un modo semplice per certo sapere se un alimento ha un basso o alto indice glicemico, bisogna solo cercare sulle tabelle. Esatto, e a proposito di tabelle c'è quello preparato dall'Università di Sydney, certo. Mettiamo il link sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina del programma, in cui inserendo un alimento ti viene fuori anche l'indice glicemico. Professor Poli, prima di salutarci, so che ci sono però dei cibi capaci di aiutare il giusto riequilibrio di zuccheri nel sangue, li vogliamo raccontare, fare una carrellata? Sì, ci sono degli alimenti che aggiunti ad altri alimenti ne influenzano favorevolmente l'indice glicemico. Mi lasci ricordare che una delle cose più comunemente utilizzate nell'alimentazione italiana, cioè la pasta, deve essere cotta in un certo modo, perché al di là dell'alimento anche la modalità con cui la prepariamo può influenzare l'indice glicemico. Noi mangiamo la pasta al dente e l'indice glicemico della pasta al dente è basso, ma chi la scuoce, come capita molto spesso per esempio nei paesi centroeuropei o negli Stati Uniti, perde questa opportunità perché la sovracottura fa aumentare l'indice glicemico della pasta. Noi facciamo scuola anche per la salute, vede? Assolutamente. Siamo avanti. Una seconda alternativa può essere di aggiungere alcuni alimenti che possono essere usati anche come ingredienti. Per esempio l'aceto abbassa l'indice glicemico degli alimenti a cui è aggiunto. Anche questo ci porta al modo di condire mediterraneo rispetto ad altri modi di condire gli alimenti. Una piccola quantità di ricotta aggiunta per esempio in un sugo nuovamente abbassa l'indice glicemico, probabilmente perché stimola un po' la produzione di insulina. Una piccola quantità di frutta secca, delle mandorle, delle noci, che stanno diventando, se ci si pensa, degli ingredienti di uso più comune di una volta, pure ha questa capacità di ridurre un po' l'indice glicemico, forse perché rallenta lo svuotamento dello stomaco. Quindi ci sono dei piccoli tricks che sono importanti e che non penalizzano il gusto, perché vi ho parlato di tre ingredienti assolutamente buoni, gradevoli, e che possono aiutarci a muoverci in questo complicato mondo di carboidrati con qualche informazione in più. Grazie professor Poli per essere stato con noi, buonissima giornata. Altrettanto, grazie a voi. 800 24 00 24, il dottor Bertuzzi è in linea con noi e abbiamo Graziano che ci chiama da Verona. Buongiorno Graziano. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. Grazie dell'ospitalità. Grazie a lei che interviene in casa nostra. Ci racconti? No, ascolta, io sono un po' di anni che ho la glicemia sempre tra i 120 e i 130, no? Adesso ho fatto le ultime analisi, mi ha dato un 159. E praticamente sono uno che si tiene molto controllato e faccio una dieta anche una dieta giusta, insomma. L'unica cosa che non mi tolgo è il pane. Sì. Ecco. E ho 56 anni e faccio anche un po' di sport. Integrale o bianco, Graziano? No, bianco purtroppo. Le faccio questa domanda perché in linea con noi abbiamo anche il dottor Luca Voledo, naturopata, che ho pregato di intervenire anche oggi, è stato di recente ospite a Essere Benessere. Buongiorno dottor Voledo. Buongiorno. Con cui parleremo di zuccheri e dintorni, e so che quando interviene in trasmissione la differenza tra pane bianco e pane integrale la sottolinea sempre, per cui gli ho rubato un po' la domanda, dottor Voledo. È notevole. Ho imparato, vero? Ho imparato benissimo. Perché come ricordava il professor Poli, il pane, in particolare quello bianco, ha un indice glicemico, già il pane integrale, quindi non raffinato, ha un indice glicemico notevolmente più basso e quindi sicuramente è una scelta da preferire. Dottor Graziano, quindi la domanda è cosa fare? Mangio... Quindi togliere anche il pane, ma scusi, ma non può essere una patologia legata al metabolismo averlo un po' alto il livello di glicemia? Sì, potrebbe, dottor Bertuzzi? Allora, diciamo che si potrebbero avere in questo caso i criteri per porre diagnosi di diabete mellito, perché se lei con due misurazioni su tre di glicemia a digiuno ha dei valori superiori a 126, noi possiamo fare diagnosi di diabete, quindi va inquadrato come qualsiasi paziente diabetico con cui va impostata una dieta, uno schema di alimentazione e soprattutto poi vanno ricercate anche le possibili complicanze cardiovascolari di questa condizione, quindi una valutazione nell'elettrocardiogramma, una valutazione cardiologica, una valutazione del fondo dell'occhio. Quindi con i suoi parametri, mi sembra di aver capito, possa essere definito paziente con diabete mellito e quindi con un'impostazione terapeutica ben precisa. E chiaramente questo è legato probabilmente ad una predisposizione genetica in cui lei in qualche modo bilancio con uno stile di vita adeguato, mi sembra di aver capito, fa attività fisica e comunque sta un po' attento all'alimentazione, però la predisposizione genetica rimane e comunque le glicemie rimangono a questo punto diagnostiche per diabete mellito. Col dottor Voledo, come vi avevo promesso prima dei mercati, volevamo aprire una parentesi sullo zucchero, e meno male che il dottor Voledo non c'era, perché quando il nostro ascoltatore è intervenuto chiedendo appunto se poteva permettersi il caffè con una bustina di zucchero, il dottor Bertuzzi ha sottolineato che nelle persone sane comunque ce lo si può permettere. Io so che il dottor Voledo avrebbe magari suggerito un'alternativa a questa bustina di zucchero. Essere e benessere. Con un poco di zucchero la pillola va giù. Ma per zuccherare il nostro caffè, quale zucchero utilizzare, dottor Voledo? La scelta è ampia. La scelta è ampia, vediamo un attimo se c'è qualcosa meglio di qualcos'altro, al di là dello zucchero bianco da cucina estratto dalla barbabietola, forse il prodotto dolcificante più consumato in Occidente, da un po' di tempo a questa parte vedo che tra i consumatori si sta diffondendo l'abitudine di utilizzare alternative. Una tra tutte, e qua vorrei puntualizzare qualcosa, si tratta dello zucchero di canna. Sì, uno dice non uso lo zucchero, uso quello di canna. Anche con fare un po' come dire la Solunga. Anche, certo, anche Roberto Scaltriti non fa quello che è la Solunga, ma usa lo zucchero di canna. Allora, lo zucchero, che sia di canna o che sia estratto dalla barbabietola, è esattamente la stessa cosa, cioè è saccarosio, un carboidrato formato da due molecole, una di fruttosio e una di glucosio. Non c'è nessuna differenza tra zucchero di barbabietola, quello bianco che prendiamo, e tra lo zucchero di canna. Identici anche come calorie, indice glicemico e tutto il resto. Semmai si potrebbe discutere dello zucchero di canna integrale, che si trova con grande difficoltà e non è quello che c'è in bustina al bar. E uno dice, quello integrale forse ci sono dei nutrienti, alcuni minerali, alcune vitamine che possono essermi utili. Da qualche parte si trova in alcuni negozi di alimenti biologici, anche in qualche grande supermercato, e si riconosce dallo zucchero di canna raffinato perché è un aspetto più raggrumato. Il problema è che la quantità di minerali e di vitamine dello zucchero di canna è così risibile che per avere qualche importanza dal punto di vista nutrizionale dovremmo consumare chili di zucchero di canna integrale al giorno, con effetti deleteri che non andrebbero, come dire, a compensare gli effetti positivi dei nutrienti all'interno dello zucchero di canna. Quindi, cosa faccio se io voglio zuccherare e voglio comunque fare delle scelte per la mia salute e per il mio benessere? Allora, la mia provocazione è non zuccherare affatto. Lo so che desto, come dire, qualche... Un po' di antipatia, diciamola tutta. Ma la spiego anche, nel senso che io non sono, come dire, contrario ai dolci, sono un fan del gelato, ogni tanto me lo concedo, ma un conto è mangiare un gelato al martedì, una torta della nonna al venerdì e qualcos'altro alla domenica, un conto è dolcificare 2, 3, 5 caffè al giorno con lo zucchero, che sia di canna o meno, magari mangiare dolce, magari mangiare o bere le bibite industriali, una lattina delle bibite che si trovano a 25 grammi di zucchero all'interno. Facendo un rapido conto si arriva come minimo a 5, se non 10 nell'italiano medio, chili di zucchero consumato all'anno. Sentiamo cosa dice il diabetologo, dottor Bertuzzi. Io penso che sì, condivido alcuni aspetti, soprattutto il fatto che bisogna un po' valutare, personalizzare l'indicazione innanzitutto che diamo in relazione appunto al tipo di persona che abbiamo davanti. Se ci sono pazienti, persone predisposte, persone malate, si dà un certo tipo di indicazione di restrizione, persone sane abbiamo un altro tipo di atteggiamento. È vero quello che diceva il collega, che oggi consumiamo troppi zuccheri semplici, e il riferimento alle bevande zuccherine è perfettamente, mi trovo perfettamente d'accordo. Okay. Queste bevande zuccherine hanno un sacco di zucchero dentro. Un sacco. Andiamo con i centrifugati suggeriti dal dottor Avoledo. Mi scusi dottore, l'ho interrotta, quindi? No, ci mancherebbe, non possiamo dimenticare che l'Italia è il paese a più alto tasso di crescita di obesità infantile. E quindi insomma qualche considerazione da questo punto di vista va fatto. Quindi fatemi mangiare qualcosa però, perché se mi togliete tutto ad esempio lo zucchero, posso sostituirlo col miele o no? Sostanzialmente ha dei benefici in più, ma l'impatto sulla glicemia è in qualche modo confondabile. Allora mi butto sulle alternative, naturali alternative o no? Perché ad esempio già Daniele mi scrive, il dolcificante è un veleno. Hai abbastanza ragione Daniele, nel senso che i dolcificanti chimici di sintesi, che ce ne sono un sacco una sporta, c'è sulfame, aspartame, saccarina eccetera eccetera, di alcuni di questi in particolare stanno emergendo una serie di evidenze scientifiche che si è visto che non fanno dimagrire e anzi fanno ingrassare, provocano una serie di altri scompensi metabolici benché non innalzino la glicemia e benché non abbiano calorie. In più su alcuni di questi come l'aspartame siamo in attesa di un parere dell'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che dovrebbe arrivare a novembre, perché gli studi in particolare del nostro mai troppo ricordato Istituto Ramazzini di Bologna sulla nocività e la presunta cancerogenicità dell'aspartame destano qualche preoccupazione. Quindi, nell'attesa che cosa consumiamo? Nell'attesa un alternativo potrebbe essere la stevia. La stevia è una pianta sudamericana che è stata sdoganata da poco, fino a qualche anno fa la usavano quasi di contrabbando, le persone coltivavano sul balcone perché era vietata, perché era considerata anche questa nociva, poi la FAO e l'OMS hanno detto che non è così, e adesso da un paio d'anni in commercio. La stevia non ha calorie, ha un potere dolcificante molto alto, 300 volte quello dello zucchero, non fa ingrassare e quindi è pistola alla tempia. Utilizziamo la stevia. A me non piace lo stesso, perché si è visto che come i dolcificanti chimici, anche la stevia con dolcificante naturale, dà un segnale ingannatorio all'organismo, cioè fa percepire un gusto dolce senza che poi vengano ingerite realmente delle calorie, e si è visto, esperimenti scientifici alla mano, che poi queste calorie nel corso della giornata l'organismo le va a cercare. E quindi ingrassa. Allora, voglio leggerle solamente, caro dottore, anche lo zucchero bianco è veleno per come viene trattato chimicamente. Abbiamo detto anche il dottor Bertuzzi e anche il dottor Avoledo ha detto evitiamo lo zucchero, limitiamone. Insomma, mi sembra che nelle posizioni siamo tutti d'accordo. Ci toccherà controllare il nostro consumo di zucchero e cercare delle alternative. Senza fanatismi, cioè un dolce ogni tanto godetevelo, se però ogni giorno appunto cucchiaini di zucchero per dolcificare, bibite, dolci e gelati. Non zuccheriamo inutilmente, insomma. Dottor Avoledo, grazie. Ma grazie a voi. Buona giornata, grazie. Dottor Bertuzzi, abbiamo Mirko che ci chiama da Genova. Buongiorno, Mirko. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo chiedere, facendo attività sportiva, le gran fonde in bicicletta, quindi gare che generalmente impiegano 4, 5, 6 ore di sforzo fisico, volevo capire qual era il metodo migliore per evitare i picchi glicemici, in modo tale da avere per tutta la durata della competizione e anche soprattutto dopo, alla fine della gara, io spesso avevo dei mal di testa incredibili dovuti probabilmente a un calo o comunque a dei picchi glicemici. Come poter fare per evitare questo sintomo? Grazie Mirko. Dottor Bertuzzi, sportivi e glicemia. Io direi che comunque prima di fare attività fisica, chiaramente una persona allenata, che un'alimentazione corretta, quindi in qualche modo è importante anche il tipo di attività preparatoria che viene fatto l'attività fisica. Un po' di carboidrati anche complessi prima dell'attività fisica possono in qualche modo garantire anche un rilascio costante di zuccheri durante l'esercizio. Poi è chiaro, se l'attività fisica si prolunga nel tempo e se ci sono dei naturali cali di zucchero, vanno assunti anche degli zuccheri semplici durante l'attività fisica. In questo caso il corpo ha bisogno di avere delle fonti di energia pronte, disponibili durante lo stress, per evitare di andare in ipoglicemia. Quindi va un po' pianificato il tipo di alimentazione, però supportato anche durante l'esercizio fisico. E noi torniamo a Milano perché c'è Gianmario. 800 24 00 24, benvenuto. Nicoletta, eccola qua. Ma io direi che benino, anzi benone. Stavo pensando una cosa, i suoi ospiti a cena sono senz'altro persone fortunate, perché lei è veramente di una simpatia stratosferica. Ma grazie Gianmario. E poi posso dire una cosa? Che me la cavo anche molto bene in cucina. Chi si loda si imbroda, ma devo dire che sì. Poi grazie, comunque lei è molto gentile. E sta partendo Gianmario, sento un aereo. Sono in taxi a Linate, sono qua nel polmone. Dove sta andando? Dove sto andando adesso, quando carico, vediamo chi sale, vediamo dove va. Passeggero. Sono tassista io. Sì, avevo capito. Gianmario, lei la parola. Ecco, io qua una cosa, guardi, è firmato da Giovanni Gesù, che è poi il direttore della microbiologia di Niguarda, la mia curva glicemica. Devo dire che la firma, spero mi porti insomma buone notizie. Dai. Ecco, il glucosio basale è 107 e poi mi hanno dato quel liquido marrone da bere dopo 120 minuti che è 187. Dottor Bertuzzi, detta così quel liquido marrone fa un po' sgiai, ma allora glucosio basale 107? Dopo 2 ore 187. Sì. Allora siamo in una condizione... Arriva da Niguarda, quindi da casa sua. Sì. Tutto fatto in casa. Allora, siamo in una condizione di sicuramente di predisposizione al diabete, non ci sono ancora i criteri per definire una diagnosi di diabete, perché la glicemia a digiuno comunque non è diagnostica, nemmeno quella a 2 ore. Sì. È una condizione di alterata glicemia a digiuno e di intolleranza ai carboidrati, quindi sono quelle due alterazioni della glicemia, tutte e due presenti insieme, che ci dicono che la persona è predisposta, ha una forte predisposizione al diabete. In questo caso io direi controlli, adottare lo stile di vita, regole di vita corrette, e a questo punto farei anche una valutazione cardiovascolare, perché in questi soggetti, in questi pazienti predisposti con iniziali alterazioni della glicemia, comunque diversi studi suggeriscono di fare dei controlli anche dal punto di vista cardiovascolare. Quindi un po' di attività fisica, curare l'alimentazione, qualche controllo, un saluto di cuore a Gianmario che ci ha chiamato, al dottor Bertuzzi che è intervenuto, a Roberto Scaltritti in regia, la parte tecnica che adesso non so se userà ancora lo zucchero di canna, se no non lo sa, Laura Vanossi in redazione che lo zucchero non lo mette più. Noi torniamo lunedì, buona giornata. Essere e benessere.